Certe volte è stato come vivere dentro un bel sogno, altre invece è stata dura, una sfida, un'avventura. Certi giorni si vedeva il cielo dentro una stanza, altre notti ed altre sere la tempesta in un bicchiere. Così abbiamo imparato insieme noi che l'amore, se amore, non si butta mai. Per tutto il tempo passato insieme, ogni momento, delizie e pene. Per tutto il tempo ancora insieme, adesso e sempre, fino alla fine. Certi giorni erano chiari, una vacanza a Notting Hill, altri scuri e burrascosi come la guerra dei Roses. Poi di nuovo sembravamo come Orfeo ed Euridice, morti e poi risorti come cenere della fenice. C'è qualcosa di antico e di nuovo tra noi, qualcosa che cambia ma non passa mai. Per tutto il tempo passato insieme, ogni momento, delizie e pene. Per tutto il tempo e sempre fino alla fine. Per ogni libro letto insieme, ogni difetto stirato e poi chiuso dentro ad un cassetto. Per ogni incanto perso e ritrovato un po' per caso nel disordine dentro al mio armadio. Per ogni vuoto a ritrovare che c'è in noi. Per tutto il passato insieme, ogni momento, delizie e pene. Per tutto il tempo ancora insieme, adesso e sempre, fino alla fine.